La mobilitazione nasce perché Erdogan si è ritirato dalla Convenzione di Istanbul. Lo ha fatto in un momento molto specifico nel quale il movimento delle donne in Turchia e il movimento LGBTQ è decisamente centrale nella contestazione complessiva dell'autoritarismo del suo governo e del razzismo fondamentale che pratica quotidianamente. Lo ha fatto letteralmente dicendo: gli uomini non possono avere le mani legate, la famiglia va difesa. E il messaggio che passa è che per difendere la famiglia come pilastro dell'ordine e delle autorità sociali la violenza diventa legittima. Questo è stato fatto anche con un attacco conseguente alle persone LGBTQ con la pratica della loro libertà sessuale. Mettono, secondo lui, in questione la famiglia, e questa connessione è diventata politica per contestare il ritiro di Erdogan dalla Convenzione di Istanbul. Ha prodotto una grande mobilitazione e anche grande repressione, perché in questi giorni il movimento LGBTQ e quello delle donne sono stati duramente attaccati nel corso delle mobilitazioni. Si è data un'organizzazione internazionale, transnazionale, che è passata dalla rete East Essential Autonomous Struggles Transnational, che ha promosso questa iniziativa, che è stata costruita anche da Non Una di Meno in Italia, che coinvolge paesi europei, dell'Est Europa e anche l'America Latina, attraverso la rete Feministas Transfronterizas, dentro cui c'è evidentemente anche Non Una di Meno, e avrà diverse mobilitazioni anche in decine di città italiane. La Turchia non è l'unica che contrasta, come dire, attivamente i diritti delle donne e delle soggettività non conformi. No, all'indomani del ritiro della Turchia, per decreto notturno, come spesso fa Erdogan, del ritiro della Turchia dalla Convenzione, la Polonia, dove sappiamo benissimo che gli attacchi ai diritti delle donne sono stati molteplici, a partire dal ban, dall'abolizione delle pochissime possibilità di abortire legalmente che ci sono state in questi anni, la Polonia ha dichiarato che sta promuovendo una carta alternativa alla Convenzione, una carta in difesa della famiglia che vuole proporre a tutti i paesi dell'Est europeo. E noi sappiamo bene che in questo momento nell'Est Europa le donne e le persone LGBTQ sono duramente sotto attacco in molti modi, l'Ungheria è in testa, ma si tratta di una questione diffusa. Nelle discussioni che abbiamo avuto nelle assemblee transnazionali, noi ci abbiamo tenuto molto a evitare ogni tipo di contrapposizione della serie l'Europa civile che difende i diritti delle donne e delle persone LGBTQ e l'Est e la Turchia sono le frontiere barbare di questa Europa civile. In realtà ci sono delle connessioni profonde, sono chiaramente diverse, con diversi livelli di repressione o di governo, diciamo così, delle gerarchie sociali, però non dimentichiamo quello che sta succedendo in Italia con gli attacchi reazionari al DDL Zan, che in questo momento è al centro di una mobilitazione da tempo molto grande, che dice è certamente una legge insufficiente, noi non vogliamo risposte punitive ma una trasformazione radicale delle cose, però in questo momento su quella proposta di legge si sta combattendo una battaglia molto precisa, che deve essere tenuta aperta, e deve essere tenuta aperta la connessione con le lotte delle donne in questi anni attraverso il movimento dello sciopero. Ricordiamo che nel piano di ripresa e di resilienza l'obiettivo della parità di genere di fatto viene perseguito con sgravi fiscali per le imprese, con politiche dell'imprenditorialità femminile e soprattutto con un Family Act che stabilisce che le donne possono avere accesso ai diritti sociali soltanto se sono madri, soltanto attraverso la famiglia, e secondo criteri razzisti, perché i criteri di accesso sono restrittivi per le migranti. Allora, questo dimostra che appunto non c'è una contrapposizione tra la civiltà e la barbarie, ci sono modalità differenti sulle quali dobbiamo dare battaglia, ed è quello che faremo anche in Italia, anche a Bologna. L'appuntamento è alle 18 in Piazza dell'Unità, con partenza alle 19. Ricordiamo che a Bologna è una settimana di mobilitazione transfemminista e transnazionale, i due eventi centrali sono quello di oggi pomeriggio, al quale invito caldamente, e anche visto il clima, tutte e tutte a partecipare, e il Pride, Rivolta Pride di sabato prossimo, che partirà da Villa Angeletti.